si dice? Good afternoon. Sì. Good afternoon. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Pjanić solo davanti a Storari, lo centra in pieno, arriva Higuaín che mette dentro il gol del 2-0. Tre presenze allo Juventus Stadium in campionato, 4 gol per il Pipita. È stata una bella reazione, una bella risposta che i ragazzi hanno dato alla partita di domenica e soprattutto alle critiche che sono state eccessive, secondo me, anche dopo la partita con il Siviglia. Questa è una squadra di grandi giocatori, di grandi uomini, e nel momento dove c'è da prendere responsabilità si fanno trovare pronti. Intanto che palla di Totti per Dzeko! Dzeko! E questo è grande calcio! E questo è il grande calcio, il pallonetto di Dzeko, ma soprattutto il lancio di prima, Nolu, meraviglioso, di Francesco Totti. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, Dzeko ha anche risposto bene. Ha detto sì, vanno bene due gol, però devo essere più cattivo e questa è la parte migliore che mi è piaciuta di più. Parte Pirza, Castro! Castro, secondo gol consecutivo per l'argentino. Castro è salito altissimo e di testa ha incornato Consigli, 2-1. Siamo nelle più rose aspettative, però ovvio che una partenza così no, non ce l'aspettavamo. Abbiamo guadagnato i punti dello scorso anno, perché dopo la quinta abbiamo ancora lo scorso anno 10 punti, per cui ci fa piacere, dobbiamo continuare, continuare a divertirci quello che stiamo facendo, mettendo in campo l'entusiasmo che ci vuole per poter fare questi risultati. Da João Mario che manda in porta Icardi, non sbaglia mai Mauro Icardi, è già doppietta al 17° minuto. Iniziate a mandare dei messaggi a quelli che sono davanti, cioè quest'anno c'è l'Inter non solo per la Champions. No, penso siamo all'inizio del campionato e dobbiamo continuare così, con questo atteggiamento. Lavorando come stiamo facendo sempre, oggi siamo venuti qua, siamo contenti, però già da oggi iniziamo a pensare subito alla prossima. Baby, this is what you came for. Buongiorno a tutti, Salone Nautico 56. Siamo Salone Nautico, siamo circondati. Siamo circondati da barche, da gozzi, da gommoni, da acciughe, da belle donne, fra l'altro begli uomini come il nostro Giorgio De Luca e come tutti i nostri amici Alvise Falsone, Andrea Roccabella, Filippo Aureggi, c'è anche Claudia Schiattone, c'è anche Alessio Petrucci, c'è Carlo Genta da Milano. Ciao Carlito, come stai? Benissimo Pierluigi, sono rimasto com'è qui. Com'è lì? Bravo, presidia il fortino, che nessuno. Io presidio il forte, sì. Ecco, ho lasciato le caramelle nel... Senti, nel... toglimi subito una curiosità, abbiamo subito un ospite importante. Sì. E tra poco lo salutiamo, ma ho visto un post tuo di De Luca sul campo di Marassi. Dove me sì, l'hai portato sto ragazzo? Grande serata per De Luca, risultato non all'altezza, e c'è anche chi dice insomma che la colpa sia proprio di De Luca, ma questo è un altro discorso, non è vero, non siamo scaramantici. Beppe Bergomi, buongiorno, come va? Ciao zio. Buongiorno a tutti, ciao Carlo, ciao Luigi, tutto bene, grazie. Che fa l'Inter quest'anno? Come arriva? Prima, seconda, terza, quarta, quinta? No, questo non lo so. Ho sempre pensato che avesse una grande squadra, una rosa profonda, ed era solo questione di tempo e metterli in campo bene. Ecco, io ho sempre pensato questo di questa squadra. Sia l'anno scorso la rosa era buona, poteva fare qualcosa in più, e quest'anno è nettamente migliorata. Sono d'accordo. È il miglior Icardi di sempre? Per quello, sì, fino ad oggi? Sì, sì, in assoluto, sì, perché si prende le responsabilità, perché gioca per la squadra, e quindi non solo per se stesso, non fa solo i movimenti per fare gol. È vero che è fondamentale per la finalizzazione, con la partita che ha fatto contro la Juventus ha giocato veramente a tutto campo per la squadra in una maniera incredibile. Complimenti, perché se gioca tutto l'anno così, a parte i gol, fa giocare bene anche la squadra, che prima forse era il suo difetto, faceva gol ma non giocava per la squadra. Ma quindi De Boer è un fenomeno, diciamolo, insomma, vabbè, sinceramente, del resto noi l'abbiamo sempre detto. Mi sembra tanta roba, Pierluigi. Noi l'abbiamo sempre detto. Sta imparando molto velocemente l'italiano, però quello che mi piace sottolineare è che dall'inizio dicevamo l'Inter, almeno a parer mio, non ha una rosa inferiore rispetto a Napoli e Roma. No, assolutamente, perché quelle due squadre negli 11 sono state indebolite, nel senso che hanno perso Pjanic e Higuain. Poi il Napoli è migliorato perché ha comprato tanti giovani, dei giocatori importanti, ma in panchina. L'Inter, secondo me, la squadra degli investimenti che fanno. João Mario è un giocatore che a me piace tantissimo. Panega avevo dei dubbi, ma se gli trova la posizione giusta, questo interno di centrocampo che poi scivola alle spalle della prima punta, che non dà riferimento, la palla importante te la dà. Stiamo sempre a dire che bisogna ricercare qualità, e l'Inter è andata a ricercarla, perché João Mario e Banega sono giocatori di qualità. Assolutamente. Il margine dov'è di miglioramento? Forse i terzini, insomma, non me ne vogliono, ma insomma, forse lì c'è anche, penso, in prospettiva gennaio da poter ancora migliorare, no? Sai, Pier, è vero, assolutamente, perché se poi andiamo a analizzare gli 11, allora uno dice magari i D'Ambrosi, Santon, Ansaldi, Nagatomo, rispetto agli altri forse hanno qualcosa meno. Però insomma, le altre squadre poi non è che hanno dei terzini talmente più forti di quelli dell'Inter, perché poi è gente che ha gamba, perché io vedo sia Santon che D'Ambrosio che saltarli non è facile, magari non hanno la grande qualità nel cross, ma quella ce la deve avere Candreva, ce la deve avere Peric, ce la deve ritrovare in altri giocatori. Però effettivamente se vuoi intervenire e migliorarla ancora, quello è una zona di campo che l'Inter può sicuramente migliorare. Assolutamente. Maestro Bergomi, la salutiamo perché adesso c'è il traffico. Noi andiamo per mare e quindi no, il traffico è un controsenso. Pardo va per mare e io vado per Milano. Cioè, questo lo faccio solo per te, Getta, perché qua lo l'unica cosa che può essere Pardo, interessante è se c'è Libeccio, se c'è Maestrale e se c'è Scirocco. Se c'è Scirocco 349. Si muore dal caldo. Esatto, bravo. Il mare storicamente, adesso qui i puristi della il mare di Scirocco è quello che fa soffrire le persone che soffrono il mal di mare. La famosa onda lunga. Balin balandi. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Mentre il numero di telefono è sempre 800-24-0024. L'ho imparato addirittura io, traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Tutti convocati. Che la Juventus sia più forte o meno forte non mi interessa, l'importante è arrivare in fondo e vincere il campionato, cercare di arrivare in fondo e vincere la Champions. Ci abbiamo la Coppa Italia e la Supercoppa con caratteristiche diverse, non possiamo pensare che Pjanic abbia le caratteristiche di Pogba. Stare dietro non è mai simpatico e stasera i ragazzi sono stati bravi e siamo ritornati in testa grazie al Genova che ha fermato il Napoli. Uomo di mare, caro Genta, il professor Allegri che è tornato in testa alla classifica. Te l'aspettavi, Carlito, sì, questa cosa ieri? Beh, insomma, abbastanza. Sì, facile, abbastanza. No? Sì, mi aspettavo la reazione dopo la sconfitta con l'Inter, che tanti malumori aveva creato, però la Juventus, insomma, resta la squadra più forte e non appena ne ha l'occasione lo dimostra. Maurizio Crosetti, da Repubblica. Ciao, Mau. Eccoci, buongiorno, cari. Certo, sei sorpreso in qualche maniera tu? Io non mi sono sorpreso affatto, io mi sono sorpreso solo alla lettura delle formazioni di Juventus-Inter, ma ne abbiamo parlato fino alla noia e non credo che Allegri dica la verità o abbia detto la verità quando ha sostenuto che lo rifarebbe o lo avrebbe rifatto, tant'è che non l'ha rifatto, e che contro una squadra più debole si può anche lasciare il titolare in panchina, contro una squadra più forte il titolare deve giocare, ma sono cose ovvie, perché il calcio è anche ovvio, non è solo materia di labirinti mentali o tecnici o tattici o filosofici. Il calcio nel suo sviluppo essenziale è una cosa semplice, quando tu hai le cose chiare, no? Quando hai i giocatori forti, quelli giocano, lo schema deve essere abbastanza chiaro e, come si dice, tutto il resto è letteratura. Mi sembri Carletto Mazzone. Giocano in undici, gli altri fanno le riserve, quelli bravi vanno in campo e quegli altri entrano quando qualcuno è azzoppato. Allora, sì, anche perché poi questa regola vale anche per alcune grandi squadre dalle rose teoricamente smisurate, però poi vai a guardare e la formazione titolare è un altro dogma che è ritornato. Il Real Madrid ce l'ha, il Barcellona ce l'ha, il Bayern ce l'ha, un po' meno forse, ma ce l'ha. E quindi alla fine è così, è semplice, non vinci una Champions con 20 giocatori, o meglio, la vinci con 20 giocatori ruotandoli nel corso della stagione, ma nelle partite che contano giocano i titolari, come diceva Mazzarri, i titolarissimi, solo che lui in quel Napoli ne aveva un po' pochi. Però il Maurizio, concetto era quello. Preparati, perché adesso ci dovrei dire, ho appena lanciato l'hashtag il mio mare, qual è il tuo mare, qual è la tua spiaggia, il tuo mare dei sogni, la tua avventura. Ma pensaci un attimo, intanto c'è Pierpaolo da Rimini. Qual è il tuo mare, Pierpaolo? Quello di Rimini. Il mio mare è quello di Rimini. Pierluigi, che domande fai? La cosa più bella fai? Di Rimini qual è? Sì, vabbè, facciamo un po' più letterari. La cosa più bella di Rimini qual è? Mangiare la piadina alle 4 del mattino? No. Beh, diciamo che Rimini di cose belle ne offre tante, di notte e di giorno, specialmente spiaggia. Ecco, vabbè, non vogliamo sapere, forse la domanda mi sono c'è chi dice che la Riviera Romagnola è un po' in ribasso. Beh, io non direi, quest'anno ha dimostrato ancora una volta di essere, secondo me, la prima in Europa. Ecco, allora, perfetto. Io volevo fare una domanda... E una considerazione, se è possibile. Vai, veloce, allora, la prima domanda è questa. Ogni anno Allegri, quando inizia il campionato, mette in purgatorio alcuni giocatori. L'anno scorso l'ha fatto con i giovani di Bale Company, dicendo che sono giovani, devono capire cosa significa giocare nella Juventus. Quest'anno lo sta facendo con Higuain e Pjanic, che proprio giovani non sono. E domenica scorsa può essere che anche loro debbano imparare qualcosa, no? Beh, però gente come Higuain penso che non debba imparare molto. E questa è la prima domanda. La considerazione riguarda l'Inter. L'anno scorso ho sentito un intervento di Bergomi da voi in trasmissione, quando l'Inter era in testa alla classifica, e lui aveva detto che la Juve doveva imparare dall'Inter, specialmente in difesa, si doveva ricompattare, eccetera. Poi io avevo chiamato... Quasi prescritto, siamo quasi in prescrizione. Sì, all'inizio ci sta. Giorgio Laprato, Giorgio, il tuo mare qual è? Il mio mare è quello dell'isola d'Elba, ragazzi. L'isola d'Elba, è bella, In special modo la Biodola. Che è là? La spiaggia della Biodola. Che ah, la Biodola, è una grande Biodola. Chi non è mai stato alla Biodola? Io, ecco, per esempio. Comunque vacci, è bellissima. Ci vado volentieri. Allora, Giorgio, prego. Guarda, io dico questo, in generale, io sono tifosissimo Viola, no? Però volevo parlare un attimo in generale. Sull'Inter concordo quanto avete detto. A mio parere la squadra quest'anno è come qualità, viene subito dopo la Juventus. Sono invece, avendola vista l'altra sera dallo stadio, molto perplesso sulla Roma, perché... A mio parere la Roma ha avuto fino adesso un calendario favorevolissimo. L'unica squadra di livello che ha incontrato era la Fiorentina e è inciampata. Ha dato la prova che contro una squadra ben organizzata va enormemente in difficoltà. Secondo me la Roma ci dirà molto nell'arco delle due partite a cavallo della sosta, perché ha Inter e Napoli. Non dimentichiamoci, Giorgio, e coinvolgo anche Maurizio Crosetti, che la Roma viene da quella tramvata che ha preso in Champions League e che secondo me non può non aver lasciato dei segni. Beh, li ha lasciati senz'altro, ma credo che poi alla fine possano esserci forse dei limiti... anche strutturali nella costruzione di questa squadra, in attacco, anche se poi alla fine il Sharawi sta là, ieri sera hanno fatto molto bene, Totti ha giocato anche lui molto bene dall'inizio, addirittura ha segnato due volte, però quello che l'anno scorso è mancato è stato il vero 9, che è un po' invece la caratteristica, diciamo, di ritorno di questo campionato per chi ce l'ha e se lo tiene. La Juve ce l'ha, l'Inter ce l'ha, insomma, e la Roma in teoria l'avrebbe, però è quello, il Napoli ce l'ha naturalmente, ecco, se la Roma ha un centravanti e riesce a esprimerlo è un discorso, altrimenti io penso che poi alla fine rischi di galleggiare ancora tra il terzo e il quinto posto. Ecco, che ovviamente è un po' diverso il terzo dal quinto. In realtà secondo me la partita con la Fiorentina è stata meno... Insomma, siamo un po' condizionati dal risultato, perché in realtà la Roma non ha giocato male e non meritava assolutamente di perdere. Dove l'ho vista veramente male sarà nel primo tempo con la Samp. Sicuramente dietro ha delle difficoltà grosse. Questo secondo me oggi è un limite rispetto alle altre. Il grande tema è anche il Napoli, eh? Non so se vogliamo sentire prima Fernando da Napoli. Tu che sei, Fernando, sei per Procida, per Ischia. Pronto, Fernando, buonasera. Fernando, qual è il tuo mare? Qual è il tuo mare? Ischia. No, Capri per la verità. Abituato mica male, padre. Capri o Anacapri? Sei uomo di terra? Tutte e due. Comunque, quanto è grande la piazzetta? Ragazzi, quanti metri quadri? Comunque bando alle ciance, io sono di Cremona. Sono argomenti serissimi. Siamo al salone del mare. Sì. Vogliamo parlare di un argomento serissimo? Sì. Sì. Me lo fate dire? Certo. Tanto la lo so già. Arbitrale, corrotta. Corrotta. Perché mi spiegano, voglio fare il solito napoletanino che vittimismo eccetera eccetera. Io ho 60 anni, non ne ho 15. Però vedere un arbitro che è 5 metri di distanza, un giocatore del Genova che si aggiusta la palla con le braccia e non fischia il rigore, guardi, mi ha fatto capire tutto. Fernando, finché non si scorpora, no, fammi finire per favore. Sì. Finché non si scorpora la classe arbitrale e diventa a sé stante dalla FIGC, e allora assisteremo sempre a questo scempio. Se la Juve hanno già deciso che lo deve vincere quest'anno, e allora vada avanti col sesto, settimo, ottavo, nono, e noi saremo lì a guardare così, quinta... tutti contenti. Fernando, io capisco la rabbia. Ma siamo alla quinta giornata e abbiamo già aperto il primo dossier stagionale. Poi va bene, ci possono essere gli errori, Sarri si è lamentato, poi ne parleremo, De Laurentiis ha detto ma stiamo tranquilli perché siamo solo all'inizio, e ha usato parole di grande buonsenso. Però se apriamo il dossier arbitrale alla quinta giornata, tu capisci bene, Crosetti, che alla 34esima siamo fritti. No, ma anche perché alla terza l'aveva aperto Ferrero contro la Roma, alla quarta la Roma contro la Fiorentina. Cioè, ci sono tante cose da dire. Ieri sicuramente, secondo me, più il secondo rigore rispetto al primo, il Napoli ha delle legittime ragioni per lamentarsi, su questo non c'è dubbio. Vorrei capire da Crosetti come interpreta però la notizia che è quella di stamattina. La notizia di stamattina è che De Laurentiis a Sarri, che diceva, insomma, siamo stati, tra mille virgolette, derubati, non ho usato queste parole, ma insomma, la società deve farsi sentire, e poi siamo comunque... Il nostro dovere è fare il quinto posto perché siamo il quinto monte ingaggi. De Laurentiis gli ha detto: il nostro dovere non è fare il quinto posto perché abbiamo investito più di 120 milioni e siamo stati sicuramente danneggiati dall'arbitro, ma non voglio alibi. Questa è una dialettica forte, o no? Mi sembra una bella risposta adulta, matura, che non cerca alibi, che non si lascia trascinare dall'emotività, cosa che invece ogni tanto al presidente Laurentiis accade. E che non sia accaduto adesso mi sembra un buon segno di crescita, e lo capisco anche perché comunque gli investimenti sono stati forti, non si può mai partire con un obiettivo ridotto. Il quinto posto è realistico, può essere realistico nella mente dell'allenatore, ma non si può dire. Sì. E gli alibi sui dossier arbitrali, non si apre il dossier secondo me né alla prima né alla terza né all'ultima giornata, perché se pensiamo chiaro, però che ci sai che è fatale, arbitrale, giochiamo sai che è fatale, sai che è fatale, no? È fatale, ma non sarà bello il giorno in cui non sarà più fatale il dubbio, il sospetto, la dietrologia nei confronti di chiunque. Allora lì sarà davvero stato fatto un piccolo grande passo verso una maturità sportiva, una cultura migliore. Se continuiamo a pensare che questo compra gli arbitri, quell'altro si vende le partite, ma lo dico anche per noi, cioè forse è meglio che ci dedichiamo ad altro, per esempio al Salone del Gusto che apre oggi a Torino, certo, e che mi ha visto già certo protagonista di alcune scorribande, quindi Pierluigi, anche per te Carlo, ma Pierluigi, io credo che tu che sei un inappetente vegano, sì, no, per dovresti venire entro domenica. Ti dico la verità, per me lasciare il Salone Nautico è un grande dolore, anche oggi è una giornata pazzesca, però... Se mi proponi il Salone del Gusto potrei anche decidere di fare questi pochi chilometri che separano il mare dal Piemonte. Senti, ma non mai detto, Maurizio, qual è il tuo... Cioè, non hai risposto a Pardo. Qual è il tuo luogo del cuore per quanto riguarda il mare? Il mio mare. Qual è il tuo mare? Ah, e la Iguaglia, fuori stagione, il Molo, la Liguria, le case colorate, eccetera, e il mare d'estate, il mare di San Pieri, che è vicino a Scicli, dalle parti di Marzamemi. Pierluigi sa di cosa sto parlando. Una delle piazze il signor Marzamemi. Il signor Marzamemi. Adesso dobbiamo andare alla borsa per vedere com'è il mercato della nautica. No, la borsa e basta. Fra poco torniamo. 800 24 00 24. Grazie a Maurizio Crosetti. Abbiamo tante sorprese in arrivo. Tra l'altro c'è anche una voce non del tutto confermata al momento, che il Napoli possa addirittura andare in ritiro stasera, secondo quanto riportato da Sky. Ovviamente, insomma, durante questa prossima ora ne sapremo di più. Borsa, dica. Tutti convocati. Tra poco nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Punto di vista della panchina è che erano due rigori e questo abbraccia la palla, cioè non si può assolutamente parlare di involontarietà, un controllo di petto gli va via, lui l'abbraccia e su Milik dalla panchina mi sembrava un rigore netto e probabilmente con gli estremi dell'espulsione. Poi c'è stato un altro episodio al limite dell'area su cui si potrebbe discutere. Mi farebbe piacere intervenisse la società dopo quello che si è visto a Pescara stasera. Io quando sbaglio, se sbaglio due partite vado a casa, e nelle ultime due trasferte entro di noi sono stati commessi tanti errori, quindi un minimo di giramento è chiaro che ce l'ho, e mi piacerebbe anche non parlarne più sinceramente, perché fare la figura di quello che si lamenta mi scoccia. Quindi parliamo di calcio e stop. Noi napoletani dobbiamo sempre trovare una scusa. Noi abbiamo avuto 6 ammoniti e se dovessimo guardare le ammonizioni che ci stanno per il Napoli, nel primo tempo ci stavano almeno 2 da dietro, e lasciamo stare ma il rigore, ma dove sta il rigore? Quello è accaduto, si è buttato, infatti l'arbitro ha detto alzati perché la vista erano 2 passi. 800 24 00 24. Li abbiamo sentiti, Sarri e Preziosi, ognuno sulla sua trincea. Sai chi sentiamo adesso? Luca Bizzarri e Boris Sollazzo, ovviamente 800 24 00 24. L'un per le nostre convocazioni. L'altro armati. Ma no, poi sono sempre gemellati. Però vi rubo 10 secondi per dirvi che abbiamo chiarito la voce che c'è sul web, e anche stamattina una radio di Napoli me l'aveva data come una possibilità. In realtà il Napoli non va in ritiro oggi, forse andrà in ritiro domani, ma in quel caso comunque sarebbe assolutamente ordinaria amministrazione, visto che poi il sabato gioca. Ringrazio Nicola Lombardo dell'ufficio comunicazione del Napoli, che ha risolto l'arcano nel giro di qualche secondo. Beh, Bizzarri, come va? Dove sei? Stasera con l'altro? Bene. Eh? Sono a Milano, ieri ho visto un po' di partita, è stata una bella partita, e forse loro hanno qualcosa da recriminare, però insomma hanno anche rischiato di perdere alla fine, per cui va bene così, mi sembra il risultato giusto alla fine. Brutto tempo a Genova, guarda, non ti perdi niente. Qua oggi è giornata. Immagino. Si sta proprio male. Il tuo mare, Luca, il tuo mare del cuore, no? Perché questa è la domanda del giorno. Lanciata da Pardo. Il mare del cuore è per forza lì, è per forza dove è Pardo, proprio in quella zona lì. Perché io sono nato lì, per cui. Capo Santa Chiara, dove? Preciso. Santa Chiara là sotto non è male. Ci vai, non so se è ancora aperto, sono ancora aperti i bagni, ma di sotto si sta molto bene. Poi da ragazzi si andavano anche a commettere delle attività illecite proprio lì a Capo Santa Chiara. Però insomma, immagino, ma è tutta roba prescritta. Sollazzo, invece la moviola di ieri non è prescritta, partiamo da lì oppure è provinciale? Io partirei per il Napoli dal tuo presidente che dice le decisioni degli arbitri nel bene e nel male vanno rispettate. Sollazzo. Sì, lo ricordo infatti quando dopo Napoli-Dnipro reagì con understatement dicendo che c'era un complotto internazionale ai danni del Napoli, quindi insomma ha cambiato idea abbastanza in fretta nel giro di un anno e mezzo. E fermo restando che quello che dice Luca Bizzarri proprio in generale per me è Vangelo, e ha assolutamente ragione. Quella di ieri è stata una bellissima partita, il Genoa ha fatto una partita straordinaria soprattutto nel secondo tempo, e lo dico subito, in un Napoli-Genoa, non mi ricordo se di 2 o 3 anni fa, ci hanno regalato 2 rigori, quindi hanno solo restituito quello che c'era stato, essendo gemellati sono anche contento, però quello tra Sarri e De Laurentiis mi sembra un gioco tra i parti, cioè Sarri dice a me i giornali non fanno altro che dire che sono un piagnone, che mi lamento sempre, e però questi 2 rigori sono clamorosi e quindi ve lo devo dire, e vorrei che la società lo facesse al posto mio per evitarmi questa etichetta. E De Laurentiis fa bella figura sulla pelle di Sarri dicendo se ne parla, non se ne parla sia nel migliore dei casi sia nel peggiore dei casi, e probabilmente conoscendolo starà già col telefono rovente in mano a protestare, a dire che così non va bene, che dopo Pescara... C'è Luisa Ancelotti qui con noi, caro Sollazzo, eh? C'è Luisa Ancelotti, che Ancelotti è uomo di mare, il mister. Qual è il mare di Carlo Ancelotti? Il mare di Carlo. Porto Venere? Ma no. Adesso lui non è di mare, lui è un uomo di terra. Ma molto però il mare di terra, io ho visto il mare. Lui. Certo, pescava anche. Pescava? Uomo. Che pescava? Scudetti, coppe? Esatto. No, lui preferisce la coppa. Lui preferisce molto la coppa. Tra poco parliamo con te. Juric stasera guarderà Colorado, penso di sì. Tu però, insomma, ieri sera l'hai visto, ti sta piacendo, Luca? Sta lavorando molto bene, la squadra mi sembra solida, poi probabilmente paga anche il fatto che per il primo anno non abbiamo fatto delle grandissime rivoluzioni, per cui molti undicesimi di quelli che erano in campo l'anno scorso ci sono anche quest'anno. Abbiamo tenuto quelli forti, cioè Pavoletti su tutti, Perin, Rincon a metà campo... Sono 2 o 3 giovani molto interessanti, per cui secondo me quest'anno il mio amico Omar Milanetto con Fabrizio Preziosi hanno lavorato veramente bene. Senti, ma vedere ieri Milito lì, proprio in carne ed ossa, in carne e ossa, ti sei commosso, che hai avuto un momento Milito lo vorrei punta ancora adesso, secondo me potrebbe ancora dire... Adesso non esageriamo, Luca, dai, i tempi passano per tutti, invecchiamo, ci vengono i capelli grigi... Il mio cuore è ancora lì, noi siamo genuanti, siamo gente di cuore, il mio cuore è ancora lì, vederlo in campo è sempre un'emozione. Con l'aggio del contratto oltre la porta. Sì, uno dei momenti più belli della mia vita. Belli della storia. Altro che nascita di figli, quelli sono i momenti belli della vita. Ecco, bravo, mi piace, le giuste priorità. Giuste priorità. Anche quando vinci la Champions League. Dissacratore fino alla fine. Anche questa roba seria. Senti, vabbè, che si dice in questi casi? Merda? Come si dice in gergo questa sera? Tanta merda, e soprattutto ai comici di Colorado, perché poi noi portiamo la palla. Quelli che la devono mettere dentro sono loro, ma sono bravi, sono preparati. Anche tu fai veloso, fai veloso, sì, veloso. Io faccio veloso. Non farti squalificare, Belandi, che poi tu hai giornata di squalifica, tocca andare solo a casa Soglu. Senti, Sollazzo, bisogna vedere chi ci mettiamo al posto di veloso. Sollazzo, il tuo mare del cuore qual è? Invece? Beh, Napoli, ovviamente Napoli. Ragazzi, non può essere una banalità che quello di fronte a Via Caraccio. Beh, se ti dicessi Ostia mi prenderebbero per pazzo pure i romani. No, ma dimmi Coppangani. Guarda, allora il mio mare del cuore è anche Genova, perché lì ci sono i Parodi, che sono la mia seconda famiglia, i genitori di Edo e Andrea Parodi. Però la Maddalena, forse, ecco, fuori dall'affetto, la Maddalena, ti dirò. Vedi che scava, qualcosa tiri fuori. Qualcosa viene fuori, qualcosa di originale viene fuori. Va bene, ragazzi. Non ho capito, Sollazzo, se sei ottimista o pessimista su questo Napoli. E soprattutto è un pessimista cosmico, Sollazzo. Ormai dovresti conoscerlo. Io sono convinto che mi divertirò con questo Napoli, come sono convinto che, insomma, da quello che abbiamo visto, più di quello che abbiamo già visto dal Napoli, non vedremo. Insomma, posso dire però che Juric sarà il nuovo Simeone entro 3-4 anni. Perché veramente un fenomeno, cioè ieri tatticamente non ha sbagliato nulla e l'ha pareggiata lui da una parte e Reina dall'altra, quindi devo dire che è una cosa straordinaria. E c'è un piccolo aneddoto su Bizzarri, posso? Vai. Genoa-Napoli 0-0, quella in cui siamo andati in Serie A, c'erano sia lui che Sissoglu fuori dallo stadio, immagino che fossero stati dentro lo stadio, e io in evidente stato di alterazione l'ho abbracciato con enorme foga e lui ha temuto che fossi tipo quello che era Chapman per Lennon, quindi per quello spavento gli chiedo scusa, colgo l'occasione per chiedergli scusa. Ecco Luca, accordate le scuse? Ho pianto, una delle ultime volte in vita mia che ho pianto di commozione. Perché ti ha fatto male Sollazzo? No, ero realmente commosso. Se quello stronzo di Sosa non avesse preso quella traversa a 3 minuti dalla fine che mi ha fatto venire un infarto. Bene, Bene, bene, l'ho visto l'altra sera, Sosa, e te lo saluto. Riportiamo. Ti saluto il Pampa. Va bene, grazie ragazzi. Ragazzi, abbiamo il traffico, poi c'è la professoressa Ancelotti qui con noi che ci deve raccontare cosa mangia, sta in gran forma Carlo, hai visto? Fra poco, traffico. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Bentornati, siamo sempre al Salone Nautico, stiamo per fare una triangolazione internazionale, tra poco sentiremo Carlo Ancelotti. Buonasera, come va Luisa? Buongiorno. Come tutto sta? Bene. Vediamo poi, facciamo sai quel vecchio gioco in cui c'è una domanda a lui, domanda a lei, bisogna vedere se... Come sta? Si diverte? Mangia poco? Mangia tanto. Salmone. Salmone? Salmone, classico prodotto tedesco, classico prodotto di Baviera. Classico prodotto di Baviera, appena ce l'abbiamo ve lo dite, eh? Così controlliamo. Allora, mangia salmone e non mangia Bratwurst? Adesso sì, comincerà Bratwurst. Con l'Oktoberfest, con l'Oktoberfest anche mangiare, bere, tanto birra. È contento? Gli piace Monaco? Ma chiedilo a lui. Meglio fuori le gara? No, no, c'è mio figlio invece che è bellissimo. Ti do in anteprima l'allenatore della Roma del 2021. Ah sì? No, sì. Dico no, io. Però sta facendo veramente bene. Eh? Sta facendo veramente... A te piace Monaco? Laura? A te piace Monaco? Chi è che me l'ha chiesto? È il dottor Getta che è a Milano. Io, da Milano. Io sono a Milano. Buonasera, buongiorno. Buonasera, Monaco, buongiorno. Ma guarda, io amo il caldo, quindi boh, adesso vado giù tra una settimana, glielo saprò dire perché non lo so. Ecco, allora buongiorno a Carlo Ancelotti, come va? Vighez? Carlo? Abbiamo perso. Calone, wir sind Radio 24, Radio 24, Pierluigi Pardo von Salone Nautico, von di, come si dice nautico? Dai, nautico. Nautiken! Ma come Nautiken? Von Nautiken Salonen. Nautiken Salonen. Genta, dai, un po' aspetta, c'ho Google. Come si dice nautico no, in tedesco? Non lo sa, saperlo, dai. Nautiken. No, ma nautico in tedesco lo sappiamo, si dice... Dai, vediamo se lo sapete, vediamo se lo sapete. Si dice Botten. Nautisch. Vedi, non è Nautiken. Non è così diverso. Oppure anche Schifarz, Nautisch. Von den Nautisch Salon, von Genoa. Genoa, c'è Carlo Ancelotti? Carlo? Sì. Come stai, mister? Ciao. Non siamo ubriachi, stavamo cercando di... Siamo al Salone Nautico di Genova, c'è Luisa qui con noi, c'è ovviamente grande entusiasmo. Vighez, come stai? Sir good, anche. Sir good, faccio traduzione. Molto bene, grazie. Che cos'è che ti è piaciuto fino a questo momento proprio tanto della Germania? La cosa che ti è piaciuta, e non vale rispondere i Bratwurst o queste cose banali, del Bayern, cos'è la cosa che ti ha colpito di più? Ma qua è un ambiente molto tranquillo, molto familiare, si respira un bel ambiente intorno alla squadra, la città è molto bella, molto pulita, no, veramente una bella città, piccola però una bella città. Noi fra l'altro qui siamo male a Genova, oggi tempaccio, non ti perdi niente, sì, guarda veramente. C'è un freddo. Freddo, no. Piove, bruttissimo, ci sono anche poche barche. Stranamente c'è una bella giornata oggi. No, bene, ma soprattutto c'è un Bayer che vola, i record che continui a fare, insomma, qual è il limite per una... quanto è difficile motivare una squadra così forte, ovviamente però con così grandi aspettative, che deve vincere, deve tornare a vincere in Europa, credo, no? Tu da sempre sei abituato alla pressione, ovunque. Tanti vogliono tornare a vincere in Europa. Queste squadre, diciamo, i giocatori di alto livello sono abituati a tenere la motivazione molto alta sempre, non è quello tanto complicato, devi considerare altre cose, che sono tante partite, magari la condizione a volte non è ottimale, per questo credo che è importante tenere tutti i giocatori motivati, cercare di utilizzarli, soprattutto nei periodi in cui ci sono tre partite al giorno, questo è un po'... Credo che non è un problema di motivazione, quanto un problema fisico soprattutto. Carlo, posso girarti una mia vecchia fissa, un mio vecchio ritornello? A me fanno morire da ridere, e tu lo sai bene, quelli che dicono il mio obiettivo è vincere la Champions League. Tu l'hai vinta e l'hai vissuta su vari fronti, l'hai vinta, l'hai anche persa su vari fronti, però dire l'obiettivo stagionale è vincere la Champions League, a me è una cosa che fa abbastanza ridere. No, no, l'obiettivo è lottare per vincere. Bravo, perché poi esatto, vince, bravo, poi bravo. Vince. Ci sono tanti che la vogliono vincere, il sogno di tutti, e dopo bisogna vedere cosa succede quando arriva il momento cruciale. Credo che il primo obiettivo è essere lì al momento cruciale, dopo si vede cosa succede. Senti, io ho quattro curiosità. Quella che mi interessa di più è quando viene il tiki-taka, ma questo ovviamente è un tema che riguarda poco il futuro del paese. Ah, benissimo. Allora lunedì prossimo. Ecco, ok. Appunto. Magari con tuo figlio che sta facendo cose straordinarie, facciamo un ritratto familiare. Con mio figlio. Con tuo figlio, sì, con vostro figlio. Ammazza com'è gelosa. Senti, Totti 40 anni? 29 settembre. Sì. Impressionante? Che... È impressionante, sì. C'è avuto Maldini che ha giocato praticamente, ha vinto la Champions a 40 anni. Sono bandiere, sono... Soprattutto molto giocatori molto seri, insomma, ci tengono molto a quello che fanno e si curano, soprattutto negli anni finali, in maniera diversa rispetto agli anni iniziali. Diventano, col passare degli anni, come il vino. Esatto, migliorano. E l'altra cosa è sul Milan, perché insomma ha cominciato con mille pressioni, poi c'è stata la sconfitta con l'Udinese. Però la mia sensazione è che fin dal precampionato ci fosse comunque... una voglia di giocare a pallone da parte della squadra, che mi ha ricordato, ovviamente in piccolo, ovviamente con meno mezzi tecnici, il Milan che allenavi tu, no? Una squadra che prova comunque, con tutti i suoi limiti, ma che prova a essere padrona del campo e del gioco, come dice il signore. Montella ha delle idee positive, un allenatore giovane, bravo, che ha già una certa esperienza, perché ha già allenato squadre, io l'ho conosciuto... Ha delle idee interessanti, cerca di applicarle pur con tutte le difficoltà, ma credo che l'importante per un allenatore è di dare una identità a una squadra e lui la sta dando. Com'è la vita da nonni? Lo chiedo a tutte e due. Ma bellissima. Beh, insomma, molto bella, sì. In questo siamo d'accordo. Che dite, mi devo dare da fare? C'ho 42 sì. anni. Ormai sei cotto. Grazie della botta di fiducia. No, quando Luisa, che sta... quando il nuovo allenatore della Roma, mi hai detto un anno prima, un anno preciso? Ah sì, Davide, 2021. 2021. Dai, diciamo 2021. Lascio spazio a mio figlio per venire alla Roma. 2021. Beh, sì, perché sarai cotto pure tu nel 2021. Ma secondo me, se vuoi fare un passaggio, secondo me nessuno si offende a Roma. Senti, l'ultima cosa, il mio mare, qual è il tuo mare del cuore? La tua esperienza in mare? Perché qua siamo al Salone Nautico. Beh, rispondi bene, Carlo. Esatto. La Croazia, forse. Sardegna-Croazia. Sardegna-Croazia. Ha risposto bene? Sì, ok. Ha risposto bene. Va bene, Carlo Ancelotti, ti sei fregato il prossimo lunedì sera. Ti voglio molto bene. Fra mezz'ora ti comincio a stalkerare come sempre per organizzare il collegamento. Grazie, ti voglio molto bene. Carlo. Saluti bene. A Monaco. Tanti saluti. Come si dice? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. In bocca al lupo. Calo. Adesso abbiamo il GR. Poi abbiamo il GR e poi torniamo. 800 24 00 24. Grazie. Ciao, Carlo. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Ecco che torniamo. Pierluigi Pardo, Salone Eccoci Nautico qua. Di Genova, il sottoscritto a presidiare la postazione di Milano. Esatto. Com'è lì? Tutto a posto? Meraviglioso. C'è mare? Libeccio? Burrasca. Ci sono tutte le strade di via Monterosa allagate. C'è anche Patrizio da Treviso, sai? Sì. Patrizio da Treviso. Buongiorno, come va? Patrizio. 800 24 00 24, ne approfitto per ricordare il numero caso mai servisse. Dica. Buongiorno, allora a parte ieri il signor Mondonico, io ho fatto tutto il suo pronostico guidando con una mano sola perché l'altra era diretta verso Adri. Ma, sì, immaginiamo. Sì. Ne prendeva di più il pendolino di Mosca, del buon'anima. No, volevo sapere, vista la partita di ieri sera, che comunque non è stata brillante come quella contro la Juve, ma comunque ha dato i suoi frutti, siamo calati un po' il secondo tempo, proprio dell'Inter, diciamo. Sì, l'avevamo intuito io e Pardo. A questo punto ha ragione lo zio, cioè l'Inter è competitivo oppure ha sbagliato formazione l'Empoli per essere un po' per essere un po' ribattere un po' quello che ha detto Mondonico ieri, sembrava che fosse... Guarda, sai che ti faccio rispondere da un direttore vagamente interista, Enrico Mentana, che ringrazio. Che sensazioni ci sono, direttore, sull'Inter? È cambiato tutto. Sì, sull'Inter è cambiato tutto. Personalmente insomma, non mi sono associato alle grida di dolore, perché quando tu giochi con la squadra B all'inizio di stagione, una partita di Europa League, insomma, non è che è proprio il test più probante di tutti i tempi, non è la finale della Champions, per di più con quelle magliette uno dovrebbe anche aggiungere, ma lasciamo per l'attaccamento alla maglia è molto minore quando la maglia è quella così segnata. Però se andiamo alla sostanza invece, noi vediamo che l'Inter segni di risveglio nella data. Sapevamo tutti che De Boer era appena arrivato, anche se poteva al primo giorno di scuola già essere pronto per la maturità. Però è uno che ci sa fare. La partita con la mi sentite? Sì, come siamo, no? Qui. La partita con la Juventus, al di là della prova di carattere, ha dimostrato una cosa, che il signor De Boer l'aveva preparata perfettamente, conosceva perfettamente gli avversari, ha ingabbiato Dybala e Pjanic, cioè, no? Avendo studiato la partita, e i giocatori lo hanno seguito tutti. Ora, noi sappiamo che nell'Inter c'è una grandissima tradizione di trasgressione delle indicazioni dei tecnici, no? Sì, giocatori che a metà si dimenticano cosa dovevano fare, cioè è nel patrimonio storico. È libertaria, cioè sì. Ecco, è una squadra per definizione sudamericana anche in questo, se volete, no? Quindi tu dici sta facendo presto De Boer, sia con la comprensione del calcio italiano che con l'idioma, parla una lingua strana tutta sua, molto divertente, sì, peraltro. No, ma io, parliamoci chiaro, cioè io ho visto poi la partita di ieri sera. Insomma, quella è una squadra che sa quello che vuole, certo, cioè con un'impronta forte, sa quello che vuole. Poi noi sappiamo benissimo una cosa, che siamo in settembre, allora le impressioni di settembre sono quelle che contano veramente. Se andiamo a settembre l'anno scorso, c'è la Juve in Serie B praticamente, no? Quindi non stiamo molto attenti a consacrare successi e fallimenti, però un'idea di squadra c'è, e soprattutto c'è un parco giocatori che è stato sottovalutato. Non riesco a capire, quando tu prendi João Mario, Banega, Gabigol, che ancora non sappiamo cos'è, hai comunque signori Eder, Riccardi, Perisic, hai Candreva, io vorrei sapere da quando l'Inter non aveva due attaccanti della nazionale italiana, cioè a Candreva, sì, Eder, sì, no? Certo. Da quando non se li aveva? Assolutamente. Questo Perisic e Icardi è l'Inter dal punto di vista del reparto avanzato più forte dal 2010, questo è indiscutibile. Poi può arrivare prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, è il campionato italiano, però un tifoso dell'Inter tutto può fare meno che lamentare. No, certo, permettimi di fare l'avvocato del diavolo sottolineando i 101 milioni spesi sul mercato. Questo non è l'avvocato del diavolo, questo è il ragioniere del diavolo. Il ragionier fantozzi del diavolo, va bene. Senti, mi perdoni. Senza scomodare ancora la PFM, le impressioni di settembre. Questo è però il miglior Icardi di sempre, ci ha detto Bergomi prima. Insomma, De Boer in qualcosa anche in questo avrà avuto un merito, perché insomma è un'esplosione. Sì, anche Vanda, anche la tanto vituperata Vanda. Nel senso che... secondo me la coscienza di sé di Icardi è forte. Chi ha visto la partita ieri? Ha visto Icardi che correva dal primo all'ultimo minuto del recupero e andava dietro a tutti i palloni e andava nella posizione strategica su tutti i calci d'angolo avversari. Cioè ha macinato campo ed è stato di esempio e faceva come i grandi attaccanti, si arrabbiava quando gli sbagliavano il passaggio. Certo. Cioè è un Icardi molto cosciente del suo ruolo, è il capitano, è un caso abbastanza raro di bomber che è il capitano della squadra, no? Sì, assolutamente. Sì. E questo è molto forte. E poi c'è un'altra cosa, scusate. L'Inter ha una grandissima capacità, anno dopo anno, di sbagliare la campagna. Ne ha solo azzeccata 8 su 8, una volta sola, 2009-2010, l'anno del triplet. E andava in buca tutto, no? Ha venduto Ibrahimovic, si è preso un fracco di soldi, ha preso Milito, Thiago Motta, ha preso Pandeva. Io ti ricordo il direttore di orchestra di quella campagna acquisti e di quella squadra, Posso? Come? Ti ricordo il direttore d'orchestra di quella campagna acquisti e di quella squadra. José Mourinho. Ho capito, ma no, ma lascia perdere. José Mourinho l'anno prima non l'aveva azzeccato gli acquisti. Quello che voglio dire è che volevo arrivare al fatto che quest'anno mirabilmente e forse per fortuna, però gli acquisti sono quelli giusti. Banega ha dimostrato con la Juve, cioè certo per un giocatore con le caratteristiche di Banega la partita meno adatta, di essere uno che sa capire ed è appena entrato nel calcio italiano. João Mario ieri ha giocato non nel suo ruolo, quello in cui l'abbiamo ammirato nella nazionale portoghese, ma sembra quello che ha preso in mano l'Inter, ed è all'Inter da poco. Solo Sneijder ebbe un impatto così forte immediatamente in quel derby che giocò dopo sei giorni che era arrivato a Milano. Quindi ci sono sentimenti positivi. Ripeto, settembre l'Inter può arrivare in uno dei primi sei posti indifferentemente a seconda di come andrà, però se vado a leggere le cretinate che vi sono dette dopo una partita contro una squadra modesta, ma non così modesta, ben organizzata, molto più avanti della preparazione, giocata dalle seconde linee nel primo turno di Europa League. E con quella divisa. E io lo sottolineo sempre. Con quella maglia. Senti, l'ultima cosa, direttore, perché ci devi lasciare. Insomma, ieri c'è stato questo no che era nell'aria per le Olimpiadi. Ho letto un post su Facebook nel quale, insomma, si ribadiva il fatto che si può essere a favore oppure contro le Olimpiadi, ma adesso non deve cominciare il balletto, no? La sceneggiata delle responsabilità, dei danni. Ma insomma, parto, dai, parliamoci molto chiaramente. Tanto soltanto chi viveva sulla Luna non sapeva che questa era la conclusione più probabile dell'ascesa al Comune di Roma del Movimento 5 Stelle. Adesso fare gli indignati o i sorpresi è impensato, è un prosieguo di sceneggiata. E poi la verità vera è che sa benissimo che ciascuno di noi conosce gente favorevole o contraria alle Olimpiadi con piena dignità. Comunque le Olimpiadi non ce le avevano assegnate. Roma era in corsa, è in corsa. Tutti quelli che dicono i soldi che abbiamo perso, ma abbiamo perso rispetto a cosa? Rispetto a che se vincevamo. E quando 4 anni fa ci ha fatto perdere Monti, nel senso che ci ha eliminato lui, e cosa, quanto abbiamo perso e chi l'ha pagato? E quando nel 2004 siamo arrivati alla finalissima, diciamo, passo, per il 2004, che poi ha vinto Atene, quanti soldi abbiamo perso e chi li ha pagati? Cioè, mi pare che siamo in una situazione simile, ve lo ricordate, al giorno dopo il referendum sulla Brexit, quando si diceva che c'era la gente che chiedeva che voleva raccogliere le firme per rifare, poi quel di quelle firme non si è più saputo nulla perché non era vero. Allora, la pillola del giorno dopo è sempre questa, quella di dire ma bisogna ripensarci, ma è sbagliato, eccetera. È una decisione che stava nel novero. Quando c'è il sì e il no, è evidente che il 50% delle probabilità è che ci sia il no, come sarà il referendum, peraltro costituzionale. Qui hanno deciso per il no, basta. Si vive anche senza Olimpiadi, perché non è che se uno non ospita le Olimpiadi non ci può partecipare. No, chiaro. Ecco, e ricordiamo fra l'altro che la pillola del giorno dopo è anche contro il Fertility Day, e tanto per parlare di altri, io comunque sono biondo, lo sai, direttore, lo sai che sono biondo e faccio vita sana, sto qui al mare. Scusa, non... allora ho sbagliato trasmissione, perché pensavo di parlare con Pardo. Qual è il tuo mare? Perché oggi stiamo facendo quest'hashtag alternativo, siamo al sole nautico, il mio mare, il tuo ricordo marino. Sono uomo di montagna, ma sono uomo adriatico più che terreno. Adriatico, va bene. Grazie. Vabbè, scusate, non sputateci. No, era così, volevo fare una chiosa. Si permetterebbe mai. Sono un figlio degli anni, sono nato negli anni 50 e negli anni 60 da Milano si raggiungeva in modo privilegiato la Riviera Adriatica. E non andiamo oltre, non vogliamo sapere altro. Vabbè. Beh, insomma, almeno fino agli anni 70 inoltrati potevo guardare. Ma è bello pure quello. Grazie. Ciao, grazie direttore. Ciao. Grazie. Ci chiedono, io che conosco Insigne, mi vuol dire che quest'anno quando inizia a giocare a valere i soldi del fantacalcio spesi, ci chiede Marco da Latina. Ieri non brillantissimo neanche Mertens, onestamente. Non è il momento migliore sicuramente per Icardi. In generale sono 2 gol nelle ultime 20 partite fra questo campionato e quello scorso. Per Icardi, per Insigne. Esatto, per Icardi e per Insigne. No, stavamo parlando di Insigne, hai detto Icardi. Insigne, no, per quelli di Icardi mi sembra sono stati spesi benissimo. Marco dalla provincia di Modena, Marco. Sì, buonasera. Volevo solamente dire di chiamare ancora, invitare il signor Mondonico, ieri sì. Fatto il mago per questa riguarda... storia della schedina, ma ne ho per tutti, anche per Pardo, su... io ho fatto tre, ragazzi, come questo, fatto tre su nove, ho questo messaggio. Chiamatelo Pardo ancora, no, ma chiamatelo ancora. Pardo lo stregone della schedina, Pescara Torino tanti gol, Roma fatica col Crotone. È vero, Pescara Torino ha detto posso giocarmi over, tanti gol, 0-0. Roma Crotone, la Roma fatica 4-0. Comunque ho fatto tre, tre su nove, erano nove le partite, ho fatto tre, che è un terzo, che è quindi esattamente la probabilità statistica, perché i segni sono tre e quindi proprio era come metterci, sono stato proprio in media con... Che stai facendo, De Luca? Stai guardando le donne nude? Che stai facendo, eh? Sta guardando il telefonino mio, di questi tempi, insomma, non vorrei che fosse un hacker il signor De Luca, e vi dico comunque che qualsiasi foto dovesse uscire, ve lo dico da subito, ho fatto di peggio, perché insomma non si sa mai, ovviamente mi riferisco a una vicenda molto molto grave e ancora una volta esprimo la massima solidarietà alla nostra amica Diletta Leotta per quello che è successo nei giorni scorsi, perché chiunque pubblichi o condivida foto che non sono autorizzate e che appartengono al privato di una persona commette un reato e commette soprattutto una cosa assolutamente vile e assolutamente sbagliata. Quindi questo lo diciamo senza se, senza ma chiaro. Detto questo, io Vincenzo, sono sempre preoccupato perché De Luca ha sempre il mio telefonino in mano. No, sentiamo Vincenzo dalla provincia di Bari. È anche un'area un po' seria. Vincenzo. Che succede, De Luca? No, Vincenzo, prego. Buonasera. Vincenzo, prego. Buonasera. Prego. Voglio soltanto fare una piccola nota sull'Inter da interista. Prego. Sì, ma allora, non così triste però, Vincenzo. No, no, è un dato di fatto. Noi abbiamo fatto questa bellissima squadra, però la cosa più brutta che a me non piace è la figura che facciamo in Europa League. Purtroppo il prezzo da pagare quest'anno. Ecco, ma è lunga, guardi, adesso sinceramente non voglio dire che fosse un amichevole con l'Apoel Berceva, però l'Inter ha perso la prima partita, nessuno se l'aspettava, ci sono ancora 15 punti e come diceva Ausilio l'altro giorno, onestamente, insomma, l'obiettivo è passare il turno. Questo non toglie che la prestazione sia stata indecente, però insomma è lunga la strada, ecco, non è finita. Oggi se io dovessi guardare la stagione dell'Inter, ovviamente con l'entusiasmo delle ultime partite, mi sembra che ci siano prospettive interessanti. In Europa League certamente si deve svegliare, a cominciare dalla seconda partita a Praga, dovrà cambiare passo, però insomma è lunga la strada. C'è tempo, modo, punti e spazio. Gerardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Grazie per la convocazione. Volevo soltanto intervenire per quanto riguarda le Olimpiadi a Roma. Ho visto praticamente un'intervista a Di Maio rilasciata prima che si svolgessero le elezioni a Roma, in cui lui dice che se il Movimento 5 Stelle avesse vinto le elezioni avrebbe detto sì alle Olimpiadi. No, adesso non lo so come... Volevo segnalarvi solo questo. Mi sembra sulla 7 il programma 8:30, mi sembra, se non vado tardi. Ma io posso dirti la mia, non ho paura, l'ho già espresso l'altro giorno, a me fa paura in generale, ma questo non riguarda soltanto le Olimpiadi, e poi magari le Olimpiadi ci possono essere ottimi motivi per non farle. Mi fa molto paura l'idea che siccome si è rubato in passato, comunque si sono sprecati dei soldi in passato, allora non si deve più organizzare nulla e qualsiasi cosa in linea di principio non sia più accettabile. Mi sembra che ci siano grandi città che concorreranno a queste Olimpiadi come Parigi e Los Angeles, e mi permetto anche di dire che un movimento politico che ha legittimamente vinto le elezioni puntando proprio sulla trasparenza attraverso l'organizzazione di un grande evento avrebbe la possibilità di dimostrare che questo evento si può fare, lo si può fare molto bene senza sperperare il denaro pubblico. Tutto qui, da persona che si occupa di sport chiaramente mi dispiace e credo che, insomma, mi dispiace, poi il dossier non ce l'ho e la certezza matematica di dire che sarebbe stato fare un affare non ce l'ho e non ce la posso avere, però mi fa un po' paura l'idea che allora a questo punto non facciamo più niente. Mi sembra che le Olimpiadi a Torino abbiano rilanciato la città, mi sembra che l'Expo comunque a Milano abbia portato delle cose, poi sicuramente ci saranno stati sprechi, però insomma mi sembra che ci sia stato anche un impatto positivo. A proposito di iniziative, c'è Ilaria Cavo che è assessore di tutto ormai in Liguria, vero Cavo? No, di tutto assolutamente no. Di cosa, delega... di cosa? Allora, ecco, lo sport per chiarire. Innanzitutto. Lo sport innanzitutto, la cultura, la formazione. Ecco, sentite l'accento genovese. Siamo qui al Salone Nautico, dove ovviamente c'è questa tre giorni fantastica per tutti gli appassionati di mare, ma sabato e domenica c'è anche una grande celebrazione che riguarda un grande italiano, che credo sia... spero veramente senza nessuna eccezione, amato e considerato da tutti perché è stato un grande presidente, Cassandro Pertini, che verrà ricordato anche dal mondo dello sport a Savona, vero Ilaria? Verrà ricordato anche dal mondo dello sport, abbiamo una settimana di celebrazioni, sabato ci sarà un bel appuntamento a teatro a Genova, al Teatro della Corte, è un omaggio a Sandro Pertini, un omaggio per tutta la città, per i Liguri e i non Liguri, anche per i visitatori del Nautico che vogliono venire, è aperto davvero a tutti, ricorderemo Sandro Pertini a teatro, lo ricorderemo con lettere inedite, con uno spettacolo che rievocherà il processo di Savona in cui è stato protagonista, lo ricorderemo anche per quel mondiale dell'82 dove davvero è stato il presidente di tutti. E lo ricorderemo con i campioni dell'82, avremo Dossena, avremo Collovati, avremo una bellissima testimonianza di Dino Zoff che ricorderà quel rientro in aereo quando il presidente li aveva riportati a casa vincitori e quella partita a Scopone ve la ricorda. A proposito, che con la coppa argomento di qualche tempo fa, sono curioso di sapere che fine ha fatto, farà quell'aereo di cui si è discusso e che doveva essere destinato alla demolizione, perché è una vicenda che non possiamo né scordare né dimenticare. Assessore, possiamo fare un primo bilancio di questo? Pardoli a Salone Nautico perché è uno fortunato. Io ma sono stamattina era con Ivano Fossati, ho visto la diretta Facebook. Ma che cosa devo fare? L'ho salutato adesso, abbiamo fatto una bellissima. Ma io avrei pagato il biglietto per vedere. Ho capito, sarei tornato mi sarei fatto interrogare pur di vedere Fossati stamattina, ma dimmelo prima, no? Non esagerare. Ti invitavo, Pier, mamma mia, è stato bellissimo, ho parlato ai ragazzi dei cantautori, della canzone genovese e della genovesità, è stato bellissimo davvero. Senti, questo Genoa, perché adesso diciamo, insomma, assessore ha una passione genuana, insomma, voglio dire, ognuno con questo Genoa, bene, no? Calcio ma mi sembra... non so se ti deluderò, ma io sono andato a vedere l'ultima partita che ho visto è stata quella della Samp. Sono andato a vedere Samp Milan. Ah, Sabina 0-1, sì. Hai fatto la moviola? C'è anche Graziano Cesari, fra l'altro genovese di Boccadasse. Va bene, Gabo, noi ti abbracciamo. Qual è il tuo mare? Il tuo mare dei sogni, il tuo ricordo più intenso legato al mare? Pensa se dicesse la Sicilia o la Sardegna. No, vabbè, il mare è il nostro mare, il mio mare, più Levante che Ponente, ma per una pura, diciamo, abitudine, è il mare del Tiguglio sicuramente, ma è il mare Ligure, dai, Pierre, è stupendo tutto. No, ma io vengo spesso, io sono per Calacecata e per Ponza, però capisci che ognuno ha i suoi luoghi, comunque qui sto benissimo, fra l'altro stanotte ho dormito al mare, mi sono svegliato col mare davanti, ed è una gioia incredibile. Grazie. Detta questa ennesima banalità, salutiamo l'assessore. Grazie, ho detto io, assessore, la banalità, Cavo. Però, il mare, ecco, ci esalta. C'è Marco da Modena? Marco dalla provincia di Modena? Sì. Dove lo vedi? Io vedo Eugenio da Milano. Ah, è Eugenio da Milano. Allora mi fai gli scherzi di Luca, De Luca ma che hai fatto? Questo telefonino mio. Ma guarda che adesso controllo, prego, professore da Milano, prego. Eugenio, sono in linea. Eccoci. Siamo allora, io volevo intervenire per le Olimpiadi di Roma. Sì. A me come sportivo dispiace perché io sono stato presente a quelle del 60, perché ormai c'ho 85 anni, Sì. Volevo chiedere questo: come mai il presidente, come si chiama, quello che non è stato ricevuto dalla Raggi, Malagò, presidente del CONI, ha detto che sarà responsabile dei soldi già spesi. Ma scusa, che soldi hanno speso? Certo, è un'usanza forse solo italiana, che prima che ancora ci venisse assegnata fanno il direttore dell'evento eventuale. Questo, mi scusi, questo è normale, perché questo mi permetto di dire che è normale, perché per organizzare una candidatura non è comunque che uno dei quattrini vanno spesi, questo è normale, c'è tutto il marketing, ci sono tutti i progetti, quindi questo è assolutamente normale, mi permetto di dire, è veramente demagogico pensare che uno possa sostenere una campagna, sostenere i viaggi, andare dal CIO, fare il marketing, fare i video spendendo 0 euro. Questo mi sembra, insomma, francamente impossibile. Cioè, è come la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, cioè non è che è gratis. Esatto, non è che dici, okay, Trump e Hillary va bene, va bene. Senti, De Luca ha il telefono con la fidanzata, perché si è incupito. Con chi stai parlando? Ah, con Claudia stai parlando? Ma sei fidanzato con Claudia? Claudia Schiattone. Ha detto non ancora, ha detto non ancora. Claudia, preparati. Io ti dico, qui sta ridendo come una pazza. Lo so, ma sta per sferrare l'attacco, De Luca. Dobbiamo salutare. Dobbiamo salutare, Pardo, sì. Ci sentiamo domani? ci sentiamo domani. Io ringrazio ovviamente, oltre a tutti i nostri amici che ci hanno chiamato, Beppe Bergomi, Crosetti, Sollazzo, Bizzarri, Luisa e Carlo Ancelotti, Enrico Mentana, Ilaria Cavo e tutti voi che siete stati con noi, ovviamente Alvise, che però non è lui, lui è Andrea Roccabella, Alvise, poi c'è Claudia Scattone, Claudia Scattone, Filippo Aureggi e Alessio Petrucci e Filippo Aureggi e Andrea Roccabella, i Dick Dick e Ivano Fossati. Arrivederci, grazie. Ciao, Carlito, Pierino. Ciao a amico domani. Mio, ti voglio bene. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.